24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, senta, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Perché ogni volta che in Italia c'è un premier nuovo, la prima cosa che fa è andare dalla Merkel a chiedere il permesso. Ma cosa c'ha la Merkel? Lo ius premier noctis. Così la vede Maurizio Crozza alle 6:32 minuti. Eccoci qua, razza di debosciati. Che fine avete fatto? No, nel senso, quello sono io che dopo due giorni rientro qui a 24 mattino. Eccoci pronti con Miriam Lucchetti in redazione, con il nostro alpino Peter Bescapè in regia, come sempre. Oh, è andato dalla Merkel. Tutti dalla, effettivamente, perché tutti dalla Merkel? Quella è forte, è potente. Allora, sono le 6:33 minuti ormai. Vogliamo aprire il Parlamento, sì o no? Lo apriamo? Viva! A un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. A tutti quanti, come sempre, offre Nicole Minetti. Siamo nel pieno della 46esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Notizie dai giornali: la riforma elettorale va in coda, no? Va in coda. Prima c'è la riforma del Senato. Pare che dovremo contare ancora un pochettino. Vabbè, così è. Intanto, forse vi siete persi la notizia perché è arrivata ieri sera in tarda serata: Silvio Berlusconi non potrà essere candidato, ormai è ufficiale, la Cassazione ha stabilito. C'è l'interdizione ai pubblici uffici, non potrà essere candidato, non potrà votare e soprattutto ha perso anche la carica di cavaliere. È l'ex cavaliere Silvio Berlusconi. Paola Saluzzi, buongiorno. Ma buongiorno, ma è tornato Milan, sì. Siamo tornati tutti con buona pace, per carità, non la togliere. Ma insomma, ben trovato, tutto lo stadio con te. Sì, sono tutte notizie. Lo stadio, che, sì. Tutto lo stadio, secondo sì. me, se San Siro può bastare. di sti tempi, vuoto, San Siro vuoto. Sì, abbiamo tutte queste notizie da capire e gestire. Certo che su Merkel, però, ma insomma. Adesso ci arriviamo. Non puoi spostarti e non puoi fare un viaggio un po'. Basta, fatelo lavorare. Non puoi presentarti col cappotto sbagliato. Cappotto. Sì, ma chi di noi non ha abbottonato il bottone sul bottone giù? In quinta elementare. Ma figurati, tutti. Ma in quinta elementare, io devo dire, non dovrei, capita ancora oggi. Figurati anche a me. Alle 5 del mattino, anche la camicia con i colli, con i colli sbagliati. Comunque, buongiorno a tutti. Buongiorno. Saluto anche Luca Dini, il direttore di Vanity Fair. Buongiorno, caro direttore. Buongiorno. A te capita di sbagliare i cappotti, cioè di sbagliare il bottone. Qualsiasi cosa. No, cioè scarpa destra nella scarpa, nel piede sinistro. No, sono ex anch'io. Tra l'altro oggi c'è un po' sdegnato e arrabbiato sul Fatto Quotidiano, parla il signor Cervino. Sai chi è il signor Cervino, cara Paola? Sì. Sì, quello del cappotto, no? Dice il signor Cervino, dice, mannaggia, proprio quel cappotto lì è fatto che se sbagli un bottone sembra tutto fuori misura, è il mio cappotto, ma vi assicuro che è un cappotto perfetto. Ma così l'hanno nuotato tutti ancora di più. Ecco, infatti. Io sento l'inguaribile ottimista. Va così bene. L'hanno nuotato tutti ancora no, di più. No, vabbè, ma entriamo nella questione invece vera, cioè quello ius premier noctis. Dà fastidio di andare da Angela Merkel, cara Paola Saluzzi, ti dà fastidio? Io ritengo assolutamente no. No. Siccome noi siamo parte di un unico corpo che è l'Europa, ammettiamolo, corpaccione talvolta, nel senso, insomma, un po' dove una mano non sa che cosa fa un piede, però assolutamente no. Andare in Europa e andare in Germania in questo momento significa andare a parlare con, io amo dire, con chi di dovere. Quindi non riesco a capire tutta questa furia, foga, campanilismo sciocco. È andato a fare i compiti, a dettare i compiti, a chiedere i compiti. Sì. Vabbè, capita, questa è un'espressione, no? Che è nata qui in Italia per dire. Però anche noi ci giochiamo, perché cosa ha detto Renzi prima di andare? Non siamo quelli dietro la lavagna, non siamo gli asini. Ma certo, ma non capisco perché il colloquio, il parametrarsi, il chiedere, il mettersi sul al tavolo a dire ok, allora fin dove si arriva, che cosa possiamo, che cosa non possiamo fare, in genere questo attacco isterico generalizzato. Insomma, quindi tranquilli, è giusto andare da anche la Merkel. Vorrei sentire secondo anche me il parere di Luca Dini. Certo che la Merkel ne ha visti di premier ultimamente, però andiamo lì a farci dettare la linea o andiamo lì a fare che, caro Luca? No, ha ragione Paola, sono tutti rosiconi, perché non, cioè, tutti quelli che parlano non verrebbero mai ricevuti da Angela Merkel, diciamo. Che è un po' il sogno erotico di tutti. No, cioè, in che senso? Tutti, essere tutti ricevuti o anche la Merkel in sé? Se andiamo noi e citofoniamo, non è che... No, non ci suono, no. non ci apro. Citofonare Merkel. Angela. Angela. Va bene, a proposito sentiamo sempre Crozza, perché effettivamente ne ha visti Angela ultimamente di premier italiani. È dal 2005, Gio, che la Merkel incontra premier italiani. È la sesta volta. Berlusconi, Prodi, di nuovo Berlusconi, Monti, Letta e ora Renzi. Ma la Merkel di lavoro fa i casting di premier italiani? Lei cosa ha portato? Un attimo, finisco una telefonata e arrivo. Prossimo! Io ho portato tanta calma. Anche prossimo! Io ho portato un monologo su lacrime e sangue. Le faremo sapere. Avanti Letta. Letta purtroppo ha preso il treno. Sarei venuto io del fare del video di riformare il giobattare. Il giobattare non è male, caro Luca. Vabbè. Ma tu tra l'altro l'hai tweet, come si deve dire, l'hai tweet intervistato la scorsa settimana, no, Matteo Renzi? Vabbè, ma lui... Ma quella è stata bellissima, però. Sì, voglio dire... Dico, il direttore Luca Dini è passato dal no, non sono su Twitter, a fare la tweet intervista al premier. Guarda che ti metto i violini, stai attenta. No, ma che violini? Stai attenta, no, che ti metto. Il popolaccio di Twitter dobbiamo premiarlo. Ti metti... No, ma com'è Renzi, Luca? Tu l'hai fatto intervistare una volta dal giornalista tedesco, lì il direttore, sì, come si chiama, di Die Zeit. Adesso lo intervista. Cioè, la vera novità è che non hai voglia di averci niente a che fare di persona. No, è così, è veramente un comunicatore diverso, cioè, che ha cambiato anche il linguaggio della politica, c'è poco da dire. E quindi insomma è così, effettivamente pare che non legga i giornali, pare che ma twitta. Allora, vi posso lasciare con il Brunetta senza il Brunetta del giorno? No, infatti, cioè, nel senso che lo vuoi sentire, non vi posso lasciare senza. Allora, Brunetta. Quello che la Germania cura sono i conti, sostanzialmente il ferreo controllo sui bilanci, in maniera tale che questi discoli di italiani solo pizza e amore non mandino in malora l'intera Europa. Hai capito come siamo, cara Paola Saluzzi? Solo pizza e amore. Pizza e mandolino è diventato pizza e amore, un po' più romantico. È più romantico. Sono buona pace dei mandolini. È probabilmente insomma, una punta di vero in questi discorsi c'è, nel senso che tant'è che ciò che la stampa tedesca scriveva il giorno della visita di Renzi era questo. Cioè, certo, non pizza e amore, ma sta venendo a chiedere di aumentare il debito, di pagare i debiti col debito, di insomma critiche di tutti i tipi, paura di tutti i tipi, neanche fosse arrivato veramente una specie di piccolo vampiro, piccolo nel senso della giovane età, e dimostreremo che siamo in grado, e lo stiamo credo già dimostrando, di fare altro. Dobbiamo fare, il concetto è questo, cioè un timer, quello che c'è effettivamente sulla scrivania nostra, oltre che del capo del governo, è una clessidra, che a me ha sempre messo una grande angoscia, come ho detto. Ma è vero che però ci tengono un po' così, ma cos'è sta cosa che dobbiamo essere, no? Dobbiamo ricominciare, dobbiamo cercare di abbassare quel mostro che abbiamo costruito, purtroppo tutti noi, uno dice, ma io veramente pagavo le tasse, o io non c'ero, o io non ero nato, che si chiama debito pubblico. Nel momento in cui noi lavoriamo perché questo debito pubblico la smetta di stare sulle nostre spalle come un oggetto o un soggetto esageratamente opprimente, arriveremo ai risultati. Va bene, la Germania ce la sta facendo, vuoi mettere la battiamo sempre 4-3 a pallone, vuoi mettere che non ce la facciamo pure noi? Io parlerò alle 8:15 anche di questo invece euroscetticismo. Sentite anche Salvini della Lega, uno di quelli che su queste cose sta facendo una campagna elettorale martellante. Salvini: una buffonata, se la Merkel è contenta di quello che ha proposto Renzi vuol dire che per gli italiani c'è l'inchiappettata dietro l'angolo. Caro Luca Dini, direi che l'editoriale è stringato, però dal suo punto di vista di Salvini è abbastanza efficace nel messaggio. Se la Merkel dice così vuol dire che l'inchiappettata per noi è dietro l'angolo. Guarda, sarò altrettanto lapidario, è un poveraccio quando dice queste cose, perché oltretutto quando erano al governo non li ricordo così antitedeschi, così coraggiosamente anti-Merkel. Cioè, il problema è che noi, come dice Paolo, abbiamo questo problema del debito, e il problema del debito italiano è un problema in tutta l'Europa. Non è che la Merkel sta lì a far fare i compitini a noi, siamo noi che non li abbiamo fatti per 20 anni. Infatti la questione è dibattuta su questa. C'è da inserire in questo discorso un messaggio di un ascoltatore che vi dice la parola corpo detta da Paolo a quest'ora è un qualcosa. Vabbè, ma c'è la gente. Non sospirare anche, perché sennò poi i nostri ascoltatori poi si montano la testa. Allora, vogliamo parlare anche di Silvia. Cosa ridi? Rido perché questa, guarda che fai questo effetto. Poi gli ascoltatori mandano gli sms e ti leggo quelli più edulcorati, quelli più gentili, quelli più poetici. Non leggiamo tutto. Allora, c'è da parlare ora di Silvio Berlusconi. Il titolo del giornale che sta facendo questa campagna per candidare Silvio Berlusconi: non può neanche votare. E questa è la notizia. E soprattutto ha perso anche veramente l'ex cavaliere. Cioè, non è Paola, non è più cavaliere. Questo era la lista della perdita di determinati diritti, purtroppo c'è comunque, no? Quando tu entri in un caso di un'interdizione lo sai dall'inizio, solo che quando lo sai dall'inizio ma si sta attendendo la sentenza finale sono cose che stanno lì, quando avviene da quel momento in poi diventa tutto vero. Ho capito, ma cioè l'ex cavaliere, cioè, cambia tutto il mondo, sì. Cavaliere, no, è un ex cavaliere. Già cavaliere, ma insomma. Fu cavaliere Berlusconi, no, come lo dobbiamo chiamare? Passeranno i 2 anni e in questi 2 anni sicuramente l'uomo non sarà zitto, insomma. No, certo, questo no, però il cavaliere l'ha perso, non è che tra 2 anni io ridiamo, credo. Ma non so che cosa gli possa dispiacere di più, il cavalierato piuttosto che non poter votare. Insomma. Beh, certo, non potersi candidare soprattutto. Candidare. Pensa all'ex cavallo. L'ex cavallo addirittura no, ma caro Luca, è una notizia, cioè ormai no, perché non è una sorpresa, sì, è una notizia, ma non è una sorpresa, dai. No, effettivamente devo dire, vedere i giornali, sì, la notizia è in prima pagina, per carità, la sentenza è arrivata ieri alle 22, ma a parte il giornale che ne sta facendo la campagna, però gli altri giornali non è che dedicano grandissimo spazio a questa notizia, o no? Segno dei tempi che cambiano. Quindi c'è segno dei tempi che cambiano anche queste. Beh, sì, sicuramente. Anche non, questo. Non temo che in questo momento non sia proprio in cima alla lista delle priorità del paese, degli italiani. Capire di Berlusconi. Va bene, comunque andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi entriamo con Paola Saluzzi e Luca Dini. 24 mattino. Matteo, lo sai che chi percepisce una pensione medio-alta pagata ai contributi e quasi sempre contribuisce ad aiutare figli e nipoti senza soldi e che non può permettersi pizzerie, teatro, eccetera, anche se prende secondo te una buona pensione? È facile per te fare i conti in tasca agli altri pensionati, tu che prendi fior di quattrini, vergognati! Renzi dice che in parte ce porta più sordi in busta paga. Bene, porta aperta per chi porta, chi non porta parta pure. basta che da un'altra parte non si disparte. Ma di solito i sordi che ridono col tralla tralla se ne ridanno con l'alla tallero. Grazie Renzi per permettermi di andare a trombare con quegli 80 euro, perché 400 vanno d'affitto, 400 vanno per mangiare, 200 vanno per le bollette, e così con gli 80 euro riesco ad andare a mangiare una pizza con una donna, non vedente naturalmente. Berlusconi candidato? Candidato in Lettonia, ma quella del Lettone, di Putin. Perché non pensano di togliere la scorta a De Mita, a Cirino Pomicino, a Cavour, a Garibaldi, a Emilio Fede, a Vanna Marchi, ai Minetti Pivetti e tutta la compagnia cantante? Caro Milan del Mattino, tu sei proprio il gioiellino quando leggi il giornalino, spiritoso, intelligente, colazione per la mente. Ben per questo ti ringrazio e ti mando un grande abbraccio. Ciao! L'ultima rima era di quello un po' così, caro Luca. E te l'ho detto, tutto lo stato, non ci sei lì. Sì, no, sì, sì. No, vabbè, l'ultima rima era un po' così. Allora, prima, Luca, dobbiamo migliorare un attimo, però insomma per il resto. Devo dire, è una scelta poetica, bellissima. Sì, esatto, vabbè, giusto. Devo dire, moltissimi, cara Paola, sempre contro Renzi, si vede che sei lo sfogatoio di tutti coloro che contro questa... agiografia. Non c'è più tempo. Facci vedere che alla geografia corrisponde al fatto che tutti in questo momento ti seguono, corrisponde il risultato. Allora, quando arrivano i risultati, si ricomincia a respirare e sono i 100 metri dell'Olimpiade. Sono 9 secondi che durano un'eternità. Infatti. Ma staremo a vedere. Allora, intanto ieri Renzi addirittura ha abbracciato Massimo D'Alema. Cioè, cose che non veramente, no, caro Luca, erano inconcepibili. Fui andato a presentargli il libro. Questa è una vera notizia. Tanto forse che... con le puntine, però. Sì, forse si sono abbracciati. Si sono abbracciati, ci aveva nascosto forse un pugnale. No, scherziamo, ovviamente. Tanto che c'era anche la Iena, Enrico Lucci. Sentite, è stata rubata. Evidentemente c'era il servizio sulla Iena, ma sentite Lucci cosa ha detto a Renzi. Matteuccio, gli devi voler bene a Massimo, si dà un bacetto, gli devi voler bene come un nonnetto. Grazie. Non devi dire più niente di più. Gli dai un bacetto? Lo porti via. Ma un bacetto, Massimo. Ma te, dai un bacetto. Corso di precocità gli sarebbe essere padre, ma non metto. Dice vabbè, non netto proprio, no, ma dagli un bacetto. Non so se poi dopo gliel'ha dato Matteo Renzi. Allora, sai chi ho in copertina di Vanity Fair, cara Paola? Lo so. No, come lo sai? Lo so. Hai visto le anticipazioni? Sì, non ho resistito e trovo che sia un'idea bellissima. Certo, subito. sviolino. Fa sognare, ma perché? Allora chi c'è? Dillo tu, vediamo se. Brigitte Bardot. Finalmente Brigitte Bardot, 80 anni. Certo, le foto, Luca, che hai scelto non sono proprio di un ottantenne, mi sembra, no? No. Sono di una trentenne, diciamo. Ma effettivamente è una figura molto controversa. Cioè, voi avete scritto, ha passato 40 anni per togliere di sé l'immagine che aveva costruito nei primi 30-40 anni, no? In pratica. Fatto sì, così. Di fatto è sparita, almeno è diventata invisibile. Ogni tanto si sente, dico, le spara anche grosse, però sì. Però è un po' un'icona, perché ha rifiutato di esserlo in un certo senso. 80 anni quest'anno Brigitte Bardot, mamma mia quanto passa il tempo, cara Paola. Passa il tempo, 80 anni e li dimostra, ma 80 no, anni come li dimostra? La stronchi così. Che ha avuto un po' un modo non esattamente è l'anti botulinizzata, l'anti tutto, quindi è un po', si è, diciamo, trascurata nella sua immane bellezza. Ha fatto anche un po' delle cose, ogni tanto appunto le spara. Quando ha deciso di diventare seriamente animalista, beh, insomma l'ha fatto in anni in cui qualche battaglia l'ha portata avanti. Questo sì. È stata, questo sicur- se ne parla e se ne parla volentieri, la si rivede volentieri. Voglio dire, la signora Claudia Schiffer deve la sua fortuna di modella al fatto di essere stata somigliante a Brigitte Bardot nella prima parte del podcast. Ma mi incuriosirà anche l'articolo che leggerò sicuramente sugli italiani che sono trasferiti a Cuba, e mi fermo qui, caro Luca, cioè nel senso a una certa età, no, 60 anni, attirati dal mare, dal sole, dal mojito, sì, mi sembra. Mo si chiama mare. Mare, sole, mojito, Luca, sì. Cosa c'è di più? Non lo so, c'è qualcos'altro? No, c'è qualcos'altro, no, non lo so. Non lo so. Vabbè, so. No, ah, ci sono le ragazze, sì, è vero. Ci sono le ragazze, effettivamente. Allora, anche se stravince, cara Paola, dovresti intervistarlo tu, l'ex assessore di Catanzaro. L'ex assessore di Catanzaro, che oggi il Fatto Quotidiano racconta, è il vero cettolo a qualunque, intercettato con sms, eccetera, con prostitutazze di tutti i tipi. E questo almeno scrivono sul Fatto, si è dovuto dimettere, cedeva carte d'identità prostitute in cambio di, come dire, va bene, ci sono i mostri e i nuovi mostri al cinema. Posso chiedere una cosa? Che chiederei volentieri al nuovo governo, ove possibile. So che a questo punto voi dite troppo facile. Ma no, ma fai... Sto pensando da giorni, faccio nome e cognome, Eraldo Marchetti, scusatemi, a quest'ora del primo mattino, che ha ucciso la moglie a martellate davanti ai bambini di 9 anni. Sì, è vero. Sarebbe bello se questo paese facesse scattare una norma in base alla quale, se una donna denuncia, le forze dell'ordine possano fare molto di più tecnicamente rispetto a quanto oggi non possano fare, perché a un certo punto vengono fermate, c'è un tetto, c'è una soglia che non può essere superata della propria operatività. Parlare di più di questi uomini, non soltanto quando accade, proprio parlare nomi e cognomi, andarli nuovamente a cercare in carcere, dire che cosa abbiano fatto, perché quell'uomo, quando verrà messo sotto processo, dovrebbe secondo me rispondere di 3 omicidi, perché se i tuoi 2 bambini di 9 anni hanno visto la madre per terra, hanno chiamato una zia, hanno detto mamma non si muove più, aiuto, tu ne hai ammazzate 3. Allora mi piacerebbe che questo paese entrasse in un'ottica molto seria in materia non di femminicidio, di morte che si regala a mani basse, senza pensarci sopra, alle donne, perché tanto sono oggetti sui quali queste cose si possono fare. Scusatemi, però ma figurati, sai che questo è assolutamente il luogo delle parole, degli appelli e della libertà. Caro Luca, che aggiunge in conclusione? È tutto perfetto, e devo dire, è anche un bel, mi piace il parallelo tra quello che è successo e l'assessore, perché insomma parliamo di persone che veramente non sono degne di appartenere allo stesso paese. Questo assessore poi è un ex assessore, ma sta di fatto che insomma ormai è diventato un ex assessore, ma lo leggeremo in rassegna stampa. Grazie Paola Saluzzi, alle 15 su Sky TG24 ovviamente torni anche oggi, e Luca Dini, direttore di Vanity Fair, che trovate in edicola, Brigitte Bardot, questa in copertina. Grazie, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:18 minuti, come dico io, razza di debosciati. Che fate? Forza, cari italiani. È ora di produrre, è ora di attivarvi, soprattutto che c'è lo sciopero dei mezzi nelle città, quindi buttatevi nel traffico, state lì quelle 3-4 ore prima di fare i 3-4 chilometri che vi separano al lavoro, e accendete Radio 24 e ascoltate in silenzio.

per il controllo sulla crescita e l'educazione della nipotina. Quindi il problema è l'educazione della nipotina. Denunciati dai genitori, fanno appostamenti, fanno pedinamenti. La replica dei nonni è: voi non siete adatti a fare i genitori. Insomma, delle liti o delle questioni che spesso nelle famiglie italiane avvengono, ma qui sono sfociate con una denuncia per stalking in tribunale. Nonni troppo apprensivi anche per Libero, una figlia lì denuncia per stalking per l'educazione del nipote. E vabbè, questo è. Siamo al momento conclusivo, però, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali e quindi al momento del premio La Carta Costa. Oggi vince il giornale che con mezza pagina firma Oscar Grazioli si dedica alle gag, ai travestimenti, alle prodezze di chi? Di chi? Del gatto! Amati gatti, amata mia gatta Zen, il gatto sul web, diversamente dai cani, scrive Oscar Grazioli, che è anche un apprezzatissimo veterinario, i felini spesso danno spettacolo spontaneamente. Guardate per esempio Paperissima, quanti gatti avete visto all'opera? Quanti cani? Il rapporto è 10 a 1, più gatti che cani. Ma chi se ne frega? Ma dico io, chi se ne frega a scriverne mezza pagina sul giornale dei gatti che sono più buffi e sono quindi virali nelle loro scene sul web. Vabbè, la carta costa e andiamo al giornale radio. 24 mattino. Quando sono le 8:18 minuti in punto, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, secondo gli ultimi sondaggi, cari ascoltatori, un italiano su due è euroscettico, un italiano su tre sarebbe pronto a votare una delle forze politiche dichiaratamente contro l'Europa e contro l'euro. Questo in vista delle elezioni europee tra meno di 100 giorni è un elemento certamente decisivo, per alcuni è un elemento anche preoccupante. Negli ultimi tempi è cresciuto il movimento di economisti, studiosi, politici che dicono che l'euro è la causa primaria della nostra crisi e l'Europa, questa Europa, l'Europa dei vincoli, dei pareggi di bilancio, l'Europa costruita a misura delle esigenze di paesi come la Germania, è il vero motivo per cui siamo in difficoltà. Tra gli euroscettici, o forse dovrei dire più che euroscettici, gli euro arcinemici, dovrei dire, va iscritto anche un giornalista che ha scritto un libro edito da Mondadori, uscito da poco ma è già un grande successo, si intitola Non vale una lira. L'autore è il direttore del TG4 Mario Giordano, che saluto. Buongiorno e bentrovato Giordano. Buongiorno a tutti. Allora, talmente anti-euro questo libro che nella biografia ti definisci per nulla europeo, che nei ringraziamenti ringrazi figli ai quali auguri un futuro lontano da questo euro e descrivi l'euro come una guerra mondiale che ci ha lasciato macerie. Non è un po' troppo? No, non è un po' troppo, credo che sia quello che gli italiani percepiscono, che la grande informazione, i grandi giornali tendono a coprire, forse per paura o chissà per quali altri motivi, ma che in realtà i dati economici e, ripeto, gli studi sempre più approfonditi di persone non demagoghi e populisti come vengono facilmente liquidati, ma di persone serie, di studiosi, di premi Nobel, stanno confermando. Cioè la vera ragione, al netto dei nostri vizi, che sicuramente ne abbiamo tanti e sono da correggere, ma la vera ragione per cui le imprese chiudono, le imprese falliscono, il nostro sistema non sta reggendo è che ci siamo infilati in un meccanismo micidiale, in una trappola mortale che è quest'euro e di conseguenza quest'Europa. Quest'euro e quest'Europa. Allora io voglio salutare il capo delegazione del PD al Parlamento Europeo, David Sassoli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio dice in un'intervista del Corriere della Sera: cominciamo subito a dire che non siamo andati da Angela Merkel a chiedere permessi a una maestrina con la penna rossa pronta a darci i voti. Ci siamo confrontati in un dialogo alla pari. Sassoli, è davvero così o la percezione è proprio questa, che la Merkel, insomma, in quanto cancelliere tedesco, del momento detti un po' i tempi per tutti? Beh, il governo è andato, il Presidente del Consiglio è andato a spiegare quelle che saranno, diciamo, le iniziative che il governo sta adottando in Italia, e non ha dovuto chiedere nessun permesso Matteo Renzi per fare la conferenza stampa e annunciare i suoi provvedimenti, però siccome ci sono dei riflessi nella di dimensione europea rispetto a dei vincoli che noi abbiamo sottoscritto, è bene spiegarlo a tutti quello che stiamo facendo, e credo che questo sia naturale fra leader di paesi che si trovano a dover combattere la stessa battaglia, perché adesso Mario Giordano, io lo saluto, sono rispettoso di qualsiasi ipotesi, ma non vale se una moneta si chiama pizza di fango del Camerun o euro, il problema è di che cosa valgono le nostre economie, perché uno può chiamarlo come gli pare la propria moneta, ma se la moneta è troppo debole, ad esempio, un paese come l'Italia le materie prime dove le va a comprare, visto che noi non ne abbiamo? Noi non viviamo da soli, viviamo in un mondo globale, sarà sempre più globale, dobbiamo combattere e proporci nei confronti di economie diverse. Ma io credo, allora, infatti... quando si dice con troppa, secondo me, semplicità e faciloneria, usciamo di qua, usciamo di là, mandiamo tutto a monte, ma poi che cosa resterebbe di questa Europa? Questo è interessante, dei nostri paesi. È interessante. Perché c'è un piccolo particolare che da 10 anni abbiamo tutti capito, cioè l'hanno capito le famiglie, i commercianti, le imprese piccole, medie e grandi, che i nostri paesi sono davvero piccoli, che le nostre economie non potrebbero competere con colossi come la Cina, il Brasile, l'India, che stanno correndo a velocità per noi inimmaginabili. La dimensione dell'economia, la dimensione del valore del prodotto interno lordo, il valore di che cosa noi produciamo, purtroppo ci metterebbe in una condizione, diciamo, no, ma questo è un punto interessante. Io vorrei sapere da Mario Giordano, non credo che la critica sia nei confronti dell'euro perché si chiama così, quali sono allora le critiche di questo euro, Giordano? Ovviamente non dipende dal nome, dipende da una situazione semplicissima, cioè dal fatto di poter controllare o no la propria sovranità monetaria, poter controllare o no la propria moneta. Noi abbiamo ceduto sovranità monetaria e non solo, col fiscal compact abbiamo ceduto anche buona parte del controllo dei nostri strumenti economici, cioè della possibilità di fare una politica di bilancio autonoma, e in cambio, ripeto, non abbiamo avuto la protezione dalla crisi o un sistema più forte, ma è questo sì che i cittadini, le famiglie, gli imprenditori, gli artigiani hanno ben presente. Abbiamo avuto un sistema che non ci ha per nulla protetto dalla crisi, ma anzi ci ha indebolito e ci ha deprivati. Basti pensare che dal 2002 a oggi il reddito medio di ogni cittadino italiano è diminuito del 7%, il reddito medio di ogni famiglia dell'Inghilterra, la Gran Bretagna non è entrata nell'euro, è aumentato del 7%, della Svezia è aumentato del 16%. Ora la Svezia è un paese, non è la Cina o l'India, ma ha retto benissimo, ha retto meglio di noi nei confronti della crisi perché ha mantenuto la propria sovranità monetaria. Però le critiche che vengono fatte, che è una critica alla quale tu dici ma queste sono le solite scuse, e a mio modo di vedere non sono proprio solo scuse, è che forse abbiamo perso anche capacità di forza nei nostri salari, perché in Italia abbiamo avuto quella politica che tu stessa hai criticato per tanti anni, cioè la riforma del lavoro dov'è? La riforma fiscale dov'è? La riforma della pubblica amministrazione dov'è? Ma questo ce lo siamo detti, lo diciamo e continuiamo a dire che noi non facciamo le riforme, non abbiamo fatte, figuriamoci, che noi abbiamo sprechi, vizi, spudorati, sanguisughe, figuriamoci se non di nulla. Però è vero che abbiamo fatto un'Unione Europea, l'euro fatto in queste condizioni ci ha portato in un vicolo cieco. Date queste condizioni non è stato possibile creare una moneta che sia davvero più forte. La moneta, l'euro oggi è troppo forte, non è avere una moneta debole, oggi l'euro è troppo forte. Allora se è vero che una moneta troppo debole ti indebolisce, una moneta troppo forte come l'euro ci indebolisce, le nostre imprese non ce la fanno più, mentre invece favorisce un paese come la Germania, una casa, è quella politica che gli inglesi chiamano con un'espressione che si potrebbe tradurre in italiano fotti il tuo vicino. La Germania ha il record di occupazione, al record surplus commerciale. E dove lo realizza questo surplus commerciale? Nei paesi del sud dell'Europa, in Italia, in Spagna, in Portogallo, in Grecia. E i nostri imprenditori non ce la fanno ecco, più. L'economia fatta a misura della Germania. Sassoli, certo. Le faccio sentire, Sassoli, lei a Bruxelles forse non ha visto ieri Maurizio Crozza. Vabbè, Maurizio Crozza, le faccio sentire sia Crozza sia Salvini. Prima Crozza, con la sua ironia graffiante ovviamente. Perché ogni volta che in Italia c'è un premier nuovo, la prima cosa che fa è andare dalla Merkel a chiedere il permesso. Ma cosa c'ha la Merkel? Lo ius premier noctis. Vabbè, questo e questa è Crozza, però Sassoli, Salvini, le faccio sentire anche Salvini, così come Salvini invece da politico è stato ben più duro sulla questione Renzi-Merkel. Una buffonata, se la Merkel è contenta di quello che ha proposto Renzi vuol dire che per gli italiani c'è l'inchiappettata dietro l'angolo. Ecco, ma, Sassoli, vabbè, insomma, questo... ormai non si sa più che cosa dire. Vorrei soltanto fare un piccolo ragionamento, se mi è consentito. Il problema della moneta forte, questo è un problema. Ma da qui a dire usciamo dall'euro, riprendiamoci le nostre monete nazionali, questo è tutto un altro discorso. I paesi europei dell'Unione che non hanno l'euro, se venisse a crollare il sistema dell'euro probabilmente avrebbero degli effetti deflagranti quanto i paesi che hanno adottato l'euro, e questo Mario Giordano lo sa benissimo, anche perché sono monete e sistemi finanziari, bancari, assolutamente collegati fra di loro, questo vale anche per la sterlina. Qual è la differenza fra noi, gli altri, chi ha l'euro e chi non ha l'euro in Europa? La differenza la fanno i nostri paesi, chi siamo, che conti abbiamo, che economie abbiamo. Il dato più importante, mi permetta Giordano, non è di vedere gli effetti della crisi negli ultimi 5 anni, e di vedere quanti investimenti dagli anni 90 un paese come l'Italia ha perduto. Eravamo al 25% e oggi siamo al 15% di investimenti stranieri nel nostro paese. Allora vuol dire che dobbiamo concentrarci davvero sull'economia reale se vogliamo risolvere il problema di che cosa siamo dentro il sistema europeo, dentro il sistema dell'euro, e di che contributo noi vogliamo dare con gli altri paesi europei per rilanciare quella che la crisi sta provocando nelle case di tutti gli europei. Perché c'è un piccolo particolare, che non è che gli altri non soffrono la crisi. Quando si dice la grande Germania, scusate, ma si dice una banalità, perché c'è un sistema di grande impresa e di grande industria che certamente è protetto, ha delle garanzie, ma poi c'è un'economia tedesca che in questo momento sta soffrendo, e non sono veri i dati sull'occupazione, perché anche la Germania ha cominciato ad avere un grande problema di disoccupazione. I paradossi ci sono ovunque. Ecco. Ci sono... Allora, scusate, qual è il tema secondo me all'ordine del giorno? È come l'Europa si rilancia. Un continente che ha know-how, tecnologia, mercato, il più grande mercato del mondo, intelligenze, ricerca, infrastrutture, come noi cittadini italiani possiamo contribuire a rilanciare un continente che per noi è un punto di forza? Certo, e non certo la ricetta dell'uscire dall'euro. Ma noi siamo un paese di 60 milioni di abitanti. No, ma è chiaro. Facciamo così, andiamo un attimo in pubblicità, riprendiamo tra poco. 800 24 00 24, se volete intervenire, cari ascoltatori, a capire cosa pensate di questa vicenda dell'euro, anche da uomini della strada, insomma da persone che hanno a che fare con questa moneta unica da un po' di anni. Ci raggiungerà anche Alberto Saravalle, professore di diritto europeo a Padova, tra pochissimo, state con noi. 24 mattino. È dal 2005, Gio, che la Merkel incontra premier italiani. È la sesta volta. Berlusconi, Prodi, di nuovo Berlusconi, Monti, Letta e ora Renzi. Ma la Merkel di lavoro fa i casting di premier italiani? Lei cosa ha portato? Un attimo, finisco la telefonata e arrivo. Prossimo! Io ho portato tanta calma. Anche prossimo! Io ho portato un monologo su lacrime e sangue. Le faremo sapere. Avanti Letta! Letta purtroppo ha preso il treno. Sarei venuto io del fare del vino e del riformare del giobattari. Vabbè, questo era Maurizio Crozza ieri insieme a Mario Giordano, che ha scritto questo libro Non vale una lira, edito da Mondadori. È un libro fortemente anti-euro, insieme a David Sassoli, europarlamentare del PD. Ci ha raggiunto, voglio salutarlo, Alberto Saravalle, che insegna diritto europeo a Padova e cofondatore del think tank Italia Aperta. Buongiorno Saravalle. Buongiorno, buongiorno, grazie, buongiorno agli ascoltatori. Allora, intanto vorrei capire, ma Giordano che doveva fare, non certo come Maurizio Crozza, Renzi dalla Merkel, doveva ribaltare la scrivania come qualcuno dal centrodestra qualche volta aveva detto, ah vai lì e bisogna ribaltare in Europa le scrivanie? Beh, un po' più di, come dire, almeno fedeltà a quello che era il suo pensiero. Renzi pochi mesi fa aveva detto esplicitamente, l'abbiamo anche mandato in onda, il meccanismo del 3% è un meccanismo superato, vecchio, da superare. In tutto questo giro europeo niente di tutto ciò si è sentito, ma si è sentito semplicemente facciamo i compiti a casa. E allora questo mi sembra, come dire, un atteggiamento ancora una volta completamente supino al volere della Germania. In questo sono convinto che in questo momento l'interesse della Germania non è l'interesse dell'Italia, quindi le cose che piacciono alla Germania purtroppo fanno male all'Italia. Fra l'altro, se vogliamo rimanere almeno sui dati, non essere d'accordo, l'Ufficio Federale di Statistica a gennaio 2013, rilanciato dalla Reuters recentemente, conferma il numero degli occupati in Germania ha toccato il record nel 2013 per il settimo anno consecutivo, quindi sono 7 anni che la Germania macina record di occupazione, mentre noi, lo sappiamo benissimo, maciniamo record di disoccupazione. Ora poi uno può anche rimanere, io capisco benissimo la versione di Sassoli, che è, diciamo, la vulgata, è quella con cui ci hanno indottrinato, riempito la testa per anni, anche nel momento in cui entravamo nell'euro e ci dicevano che sarebbe stato il migliore dei mondi possibili, salvo poi accorgersi dopo, e adesso più o meno, almeno su quello siamo tutti d'accordo, che il tasso di cambio 1936,27 è stata una follia, una cosa assurda. Ecco, allora forse non riempirsi troppo la testa delle parole comuni, dei luoghi comuni, e provare a guardare un'altra verità, sì, guardare da un altro lato, che è confermato dai dati, che è confermato da molti economisti e che è vivo e sentito nella pancia della gente. La gente ha ragione quando sente che quest'euro gli fa male, e ci sono dei dati che glielo confermano. Proviamo a spiegargli, almeno a discutere, perché se noi partiamo sempre dal presupposto che quello da cui parte, che l'euro non si può toccare, che l'euro è l'ultimo totem, ne abbiamo fatto una specie di divinità, l'ultima nostra divinità. È possibile che abbiamo eletto a divinità una moneta e non si può discutere? E chi la mette in discussione è un demagogo, un populista, un pericoloso? No, proviamo a ragionare, perché le monete sono strumenti. No, ma chiaro, una parte di questo dibattito è proprio incentrata su questo, cioè chi critica viene considerato un populista, questo senza dubbio. Le unioni monetarie si fanno, si dicono, nelle monete si entra e si esce, non c'è mai stata creata una cosa per cui l'euro è irreversibile. Quando io sento dire che l'euro è irreversibile mi spavento, perché irreversibile è la morte. Vabbè, insomma, il paragone è impietoso. Io, professor Saravalle, intanto, in proiezione anche europea, è da considerare preoccupante l'idea che un italiano su due, ho letto sul Corriere un paio di giorni fa, e si dice euroscettico. Poi gli italiani che cosa capiscono esattamente di questo dibattito, secondo lei? Ma noi credo stiamo scontando una posizione per troppo tempo ciecamente europeista nella forma ma non nella sostanza. L'Italia è sempre stato più realista del re come paese, tutti i nostri leader si proclamavano europeisti, ma che cosa era poi questo europeismo? In realtà era un europeismo di facciata, perché nella sostanza le direttive non venivano recepite, nella sostanza eludevamo le norme, eravamo un po' i furbetti in qualche modo. Quindi oggi stiamo, come dire, scontando dall'altro lato questo europeismo troppe volte sbandierato anche per ragioni di politica interna. Non avevano i nostri leader il coraggio di fare certe riforme, quindi dicevano me lo chiedono a Bruxelles, sono costretto. E oggi si sta andando in una direzione opposta, il pendolo della storia si è mosso in modo un po' preoccupante, perché in realtà è spesso accanto alle critiche pur legittime che ho letto nel libro, sì, di Giordano, c'è anche molta demagogia, ci sono tante cose sbagliate, ma non possiamo buttare via il bambino con l'acqua sporca. Sì, quindi lei dice da una parte troppo europeisti, adesso invece tutti i mali sono l'Europa, questa è la versione di alcuni esperti, di alcuni analisti. In questo devo dire la critica anche al libro di Mario Giordano. Io vorrei sentire, prima di tornare da Davide Sassoli, due ascoltatori. Enrico da Roma ci ha chiamato, buongiorno Enrico. Buongiorno. Che pensa lei? Buongiorno. Pronto? Sì, sì, dica. Pochissime cose. Pronto? Enrico, noi la sentiamo benissimo. Parli. Ah, benissimo, guardi, volevo dire a questo... Volevo dire a questo economista, poche parole, che io quando sono andato in pensione prendevo 3 milioni e 200 mila lire. Adesso, dopo 10 anni, io prendo 1.480. Quindi credo che è una cosa assurda. Mm. Volevo dire un'altra cosa. Noi siamo cittadini europei, cioè abbiamo due cittadini europei che stanno in India e l'Europa non l'ha difesi minimamente, quindi l'Europa anche politicamente non esiste. Beh, diciamo, questa è un'altra discussione che porta anche su, c'entra certamente l'Europa, però Enrico ci porta sulla vicenda dei Marocchi, è una vicenda diversa. Mauro da Padova, grazie Enrico. Mauro da Padova, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Volevo chiedere una cosa, ho letto attentamente il libro del dottor Giordano. Sì. Io volevo chiedere una cosa e lo faccio in modo analitico. Avendo purtroppo una discreta età, gestendo aziende, lavorando in un paese che in una regione che confina con un po' di paesi che a suo tempo erano considerati mercati di sbocco e ricchi, io vorrei chiedere solo questo al signor Giordano. Lei che macchina usa? Che lavastoviglie? Con quale lavastoviglie lava i suoi piatti? Non credo che saranno italiani. Sicuramente porterà un abito italiano, sicuramente dormirà su un letto italiano o guarderà la televisione sull'atollo berlusconiano italiano. Allora, il problema non è di moneta, il problema è di qualità degli oggetti, dei manufatti che si fanno. Basta pensare all'industria tedesca, sì, la chimica di base, le automobili, eccetera, dove l'euro non c'entra nulla. Le materie prime nel mondo si comprano ancora oggi in dollari e avere un euro forte significa comprare meglio per noi che non abbiamo materie prime. Va bene, prime. No, ma la domanda è chiara. Io vorrei andare prima da Sassoli, però Giordano, visto che è stato tirato in ballo dall'ascoltatore, è una risposta, Mauro. Allora, rispondo rapidamente a tutte e due. È vero, cioè noi utilizziamo molti prodotti che vengono dall'estero, ma è una svalutazione, perché i nostri mercati, non è solo merito della qualità dei prodotti, e la dimostrazione deriva dal fatto che di questo surplus commerciale della Germania i 2/3 sono realizzati all'interno dei paesi dell'euro. Se la superiorità dei prodotti tedeschi fosse a livello di qualità, esporterebbe in tutto il mondo, mentre porta all'interno dell'euro, dove ha vantaggi competitivi. Noi importiamo dall'estero auto, lavastoviglie, perché probabilmente hanno una qualità superiore, ma anche cibo. Abbiamo visto recentemente manifestazioni della Coldiretti ai confini, importiamo i prosciutti dalla Germania o dall'Olanda, e io non credo che nella qualità del cibo abbiamo qualcosa da imparare. È evidente che c'è un problema del fatto che noi non abbiamo sovranità monetaria. Rispondo anche rapidamente all'ascoltatore di prima. Noi abbiamo ceduto quindi sovranità monetaria, la possibilità di essere competitivi sui prodotti in cambio, e lui ha ragione quando cita i Marò, perché non è solo i Marò, è l'Ucraina, è la Libia, è la Siria, in nessuna delle grandi crisi internazionali. Sì, noi abbiamo avuto un'Europa, non c'è esiste, ma allora no, ma perché cosa cediamo? No, ma è chiaro che c'è, il tema è sempre quello, cioè dell'Europa, è chiaro che ci sposta su una questione più di unità politica. Sassoli, l'ascoltatore che fa il conto della serva e dice 3.200.000 in lire e 1.480 euro è una cifra che è spiattellata lì, è come dire già questo mi basta per capire che l'euro è stato un disastro. Questo è il risultato di una crisi che ci è arrivata addosso e nei confronti della quale probabilmente dovevamo fare altre cose o cose che non abbiamo fatto. Ma non è che se il suo stipendio fosse stato quello tradotto in lire la crisi non l'avrebbe toccato. Anzi, probabilmente senza quella moneta forte, senza quel sistema di moneta unica, probabilmente quella moneta sarebbe stata svalutata 12 volte con una crisi di questo genere. Allora, il problema, lo ripeto, perché se uno si concentra soltanto sugli effetti della crisi e naturalmente su un'Europa che vogliamo diversa, ma non mette a fuoco le potenzialità di un'economia europea che noi abbiamo interesse a non solo favorire ma a rilanciare, un'economia reale, ecco, io credo che si perda di vista la prospettiva, che è quella di un paese come l'Italia, che, come ricordava il signore di Padova, non ha materie prime, che deve esportare, che deve portare in giro per il mondo la propria qualità, i propri prodotti, che deve innovare, che deve cercare di farsi valere nel sistema europeo, perché il sistema europeo sia un pezzo di quel motore globale capace di competere con i mercati lontani. Vorrei ricordare solo a tutti che 15 anni fa era l'Europa che esportava, gli altri esportavano pochissimo. Da 15 anni è cambiato il mondo. Sono gli altri insieme a noi capaci di esportare i loro prodotti. Ecco, è cambiato il mondo ed sono cambiate anche le dimensioni del mondo. Sì, sì. Oggi un paese di 60 milioni di abitanti con un'industria importante come quella italiana, con un sistema di piccole e medie imprese, con un sistema di qualità dei propri prodotti, avrebbe non delle difficoltà, sarebbe messa nell'angolo. Sì, il problema è che io sento sempre parlare di Europa, meno dall'eurodeputato Sassoli, ma credo che è questo elemento che contesti Mario Giordano, cioè parlare di Europa quando in realtà le Europe sono diverse Europe, cioè dire Europa in Germania non è dire Europa in Italia, è un po' anche il succo, credo, questo del libro. Ma ripartiamo dal professor Saravalle dopo il traffico a capire che cosa di demagogico ha trovato in questo libro di Giordano. Allora, eccoci qui, c'è sciopero, avete capito, per i mezzi. Alberto Saravalle, cosa c'è di demagogico nel libro di Giordano? Ma il libro di Giordano sostanzialmente ha tre punti, a mio avviso. I primi due sono centrati sugli sprechi delle istituzioni, sì, e dei maxi stipendi, cosa condivisibile, è giusto che ci sia, anzi è un servizio civile che viene fatto, quello di andare a vedere, a scavare, così come anche sull'utilizzo errato dei fondi. E questo, benissimo, sono delle critiche giuste, ma in qualche modo rischiano di spostare la discussione. Ci sono delle distorsioni, ma non è che per questo dobbiamo buttare via l'Europa, cambiamo, correggiamo, monitoriamo grazie a lavori di questo tipo. Il terzo punto è quello più sostanziale, quello dell'euro, e anche sull'euro in realtà viene però mossa una forte critica all'euro passando per la critica alle politiche di austerità degli ultimi anni, che sono due cose leggermente diverse, che si muovono su piani diversi. L'euro ha avuto una funzione importante, per l'Italia ci ha fatto risparmiare una cinquantina di miliardi di interessi all'anno circa, che in una decina d'anni valgono circa 500 miliardi, ha dato una certa stabilità monetaria. Poi, che fosse stato costruito forse su un tasso di cambio originariamente non corretto, non il migliore, che fosse stata creata una istituzione senza avere però corredato questa istituzione da tutte le altre cose necessarie, l'unione bancaria, altre cose, è vero, ma torno a dire, non buttiamo via il bambino. Sì, non buttiamo via tutto. Ecco, per esempio, appunto, a queste critiche, Giordano, beh, non abbiamo affrontato tutto il capitolo degli sprechi e, come dire, Saravalle dice, se l'Europa butta via i soldi per il tango finlandese, come tu certifichi, non è che per la ricetta vuol dire cancelliamo l'Europa, ma evitiamo che vengano spesi i soldi per il tango finlandese. E poi la critica, appunto, più sostanziale, a dire, se risparmiamo questi 500 miliardi di interessi, per esempio, certo, magari con un cambio svantaggioso per i salari o per i prezzi delle merci, però questa cosa non è che può essere cancellata, il fatto che 500 miliardi non li dobbiamo pagare più. No, ma intanto ringrazio il professore per la critica, perché insomma le critiche sono sempre, soprattutto così attente, sono sempre benvenute. Ma la denuncia degli sprechi intanto è un fatto, cioè un mondo incredibile, perché noi spesso denunciamo i vizi, io credo di non avere mai lesinato, ripeto, da sanguisuga spudorati le critiche al sistema italiano, però ecco, attenzione, noi stessi ogni tanto l'Europa ci bacchetta, l'Europa ci dice, l'Europa ci chiede sacrifici, poi è l'Europa che spreca soldi e lì ci si può veramente divertire, anche sorridere leggendo tutte le cose in cui spreca l'Europa, anche se è una risata male. Sull'altro elemento, io dico semplicemente questo, proviamo a guardare la cosa da un altro punto di vista, che è quello che l'euro, sappiamo che ci abbia fatto scendere i tassi di interesse, lo sappiamo, non ci ha protetti dalla crisi, ci ha reso, come diceva l'ascoltatore prima, più poveri, e non Mario Giordano, ma economisti, studiosi, rapporti delle banche, io ne rivelo qualcuno, un rapporto di Mediobanca dell'ottobre 2013 che è rimasto completamente segreto e di cui non parla nessuno, dice che buona parte di questi mali sono causati dal sistema che si è creato e da cui noi non possiamo uscire se non infrangendo innanzitutto alcuni vincoli molto rigidi come quelli del 3% del rapporto deficit-PIL e addirittura il patto euro, anche perché altrimenti potremmo essere costretti a uscirne lo stesso, perché questi dicono questi rapporti, che comunque sia una politica di austerità per molti anni i paesi non la riescono a sopportare e quindi potrebbe essere che noi ci troviamo comunque costretti a uscire dall'euro impreparati, forse meglio almeno aprire saperlo gli occhi, prima. Provare a guardare da un altro punto di vista. Ma io ho un minuto per chiudere, vorrei chiedere a Davide Sassoli se dal punto di vista politico, quindi politico, vi preoccupa come PD il fatto che la Lega, il Movimento 5 Stelle, ma anche Marine Le Pen, ma anche in Germania c'è un movimento anti-euro, cioè ci sono tante forze in Europa anti-europeiste anche in Italia, vi preoccupa in termini proprio di voti che possono guadagnare alle prossime elezioni? Ma io credo che i cittadini che andranno a votare per il Parlamento europeo il 25 di maggio, e indicando anche tra l'altro con una grande novità il Presidente della Commissione europea, avranno ben chiaro quello che è il costo della non Europa, per le loro famiglie, per le loro imprese, per il loro negozio, perché il costo della non Europa potrebbe mettere, diciamo, non nella condizione di cambiare l'Europa, ma di essere fuori gioco, di essere fuori da quella capacità che un paese come l'Italia si trova ad avere di non poter farcela da solo. Ah, quindi lei confida, confida in questo. Voglio ricordare a Mario Giordano un particolare. Noi abbiamo concluso la stagione del governo Berlusconi utilizzando, come noi abbiamo utilizzato l'Europa, i fondi europei erano fermi all'utilizzo del 9,8%. Da 15 anni noi abbiamo come parametro per l'uso dei fondi strutturali italiani, cioè risorse disponibili per il nostro paese, regioni come la Calabria. Allora io mi chiedo, è mai possibile che noi non mettiamo un po' di ordine a casa nostra per utilizzare risorse disponibili, già stanziate? No, ma è chiaro, quindi questo è il tema delle risorse, anche di come si utilizzano in Italia. Io mi devo fermare qui e ricordo ancora, se volete, lo trovate in libreria, Mario Giordano, Non vale una lira, edito da Mondadori. Ringrazio tutti, il dibattito certamente qui a Radio 24 sarà sempre aperto. A domattina 6:30 con 24 Mattino. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e gli astriti da politica.